la facciamo insieme questo. Un saluto di ringraziamento. Arrivederci. Dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci. Per una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco. Ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci. Esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci. Questo sarà un addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo nel dire. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco, ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci. Esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci. Questo sarà un addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo nel dire. Arrivederci.